Per comprendere un testo è indispensabile capire esattamente il significato delle parole che lo compongono. Percependo correttamente il significato dei termini usati, comprenderemo ciò che il testo vuole comunicare. Nella Bibbia troviamo l'espressione figlio di Dio, figli di Dio, quasi 70 volte. È vero che vi sono espressioni molto più comuni, ma l'espressione figlio di Dio coinvolge i cristiani in modo determinante perché è riferita anche a Gesù Cristo, il Creatore, il Salvatore, il Dio dei cristiani. È dunque indispensabile comprendere questa affermazione per non cadere in una interpretazione fuorviante, foriera di una fede illusoria. Poiché l'espressione figlio di Dio è composta di due termini, uniti da una preposizione semplice, non è possibile comprendere correttamente l'espressione se non diamo la giusta interpretazione ad ogni singola parola. Esaminiamo il significato ad ogni termine. Prendiamo in esame il termine figlio e figli e le sue varie applicazioni. 1. La prima e più immediata applicazione al termine figlio è, come dice il dizionario, il generato rispetto ai genitori. Leggiamo in Genesi 3:16. Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con dogli e partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su di te». E ancora, Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Genesi 6:10. 2. Può riferirsi ad un'etnia, ai membri quindi di un popolo. Così Gefte marciò contro i figli di Ammon per far loro guerra, e l'Eterno glieli diede nelle mani. Giudici 11:32. I figli di Ammon non erano altro che gli Ammoniti. Per questo fino al giorno d'oggi i figli di Israele non mangiano il tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe al punto del tendine della coscia. Genesi 32:32. In questo caso si parla degli ebrei. 3. A volte esso è riferito alla razza umana. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Genesi 11:5. 4. E, riferito anche al popolo di Israele, e tu dirai al Faraone, così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Esodo 4:22. 5. A volte si riferisce ad una relazione di parentela. Questi furono i figli di Rachele, che nacquero a Giacobbe. In tutto 14 persone. Genesi 46:22. Rachele partorì solo 2 figli, Giuseppe e Beniamino. Poiché a Giuseppe nacquero 2 figli e a Beniamino 10. Genesi 46:19-21. Lo scrittore considera figli di Rachele anche i nipoti. 6. Il termine figlio è applicato agli angeli. Dove sono fissate le sue fondamenta o chi pose la sua pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia? Giobbe 38:6. Quando l'Eterno riformava il mondo, l'uomo non era ancora stato creato, perciò il termine figlio si può solo applicare agli angeli. 7. La parola figlio è attribuita agli uomini fedeli dell'Antico Testamento. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per loro mogli tutte quelle che essi scelsero. Genesi 6:1-2. Non tutti ravvisano nei figli di Dio i discendenti di Set, ma, personalmente, condivido quest'interpretazione avallata da Giovanni, Crisostomo, Teodoreto e Cirillo. 8. Nel Nuovo Testamento sono figli di Dio tutti coloro che sono generati da Dio mediante il battesimo nello Spirito Santo. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1:11-12. Anche la lingua italiana fa un uso multiforme del termine figlio. Parliamo dei figli di Eva, intendendo tutta la razza umana, del figlio di famiglia, riferendoci ad un minorenne, del figlio di papà, indicando un giovane viziato o che si fa strada giovandosi della posizione sociale, figlio di mamma, riferendosi ad un giovane debole e privo di autonomia, figlio di nessuno, intendendo un trovatello, figlio di buona donna, come epiteto ingiurioso, figlio di un cane, come espressione ingiuriosa. Poiché il termine figlio ha più applicazioni, così è anche per il termine padre. Leggendo che Salomone si assise sul trono di Davide suo padre e il suo regno fu saldamente stabilito, 1 Re 2 e 12, comprendiamo che Salomone era il figlio che Davide aveva generato. Ma leggendo più avanti che Jotam si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide, suo padre, 2 Re 15 e 38, dobbiamo considerare il contesto, 2 Re 15 e 34, per comprendere che Aiotam viene definito figlio di Davide in quanto discende dal re Davide e anche perché fece ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno. Per questo, egli ebbe sepoltura accanto a quelli che, come lui, avevano ubbidito ai comandamenti di Dio. Stessa mentalità troviamo in altri brani della Scrittura. Nell'anno 18° del regno di Geroboamo, figlio di Nebat, Abijam iniziò a regnare su Giuda. Egli regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maacah, figlia di Abishalom. Egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commesso prima di lui e il suo cuore non fu interamente consacrato all'Eterno, il suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. 1 Re 15. 1 a 3. In tale prospettiva deve essere considerato il termine figlio nell'espressione figlio di Dio. Leggiamo nella genealogia di Matteo, libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, Matteo 1:1. Gesù viene definito sia figlio di Davide o Davide suo padre, Luca 1:32, sia di Abramo, per dimostrare che egli era il diretto discendente di due uomini ai quali l'Eterno aveva fatto delle promesse particolari. Ad Abramo fu promesso che da lui sarebbe nata una progenie che avrebbe recato benedizione a tutta la razza umana, tutti i figli di Eva. A Davide invece era stato promesso un regno di durata eterna, dunque l'espressione figlio di Dio ha un'implicazione più profonda ed ampia. Queste prime riflessioni servono a far comprendere che non possiamo attribuire al termine figlio, usato nell'espressione figlio di Dio, il significato più ovvio, cioè che Gesù è stato generato dal Padre. Secondo questa interpretazione, infatti, il Padre è il solo Dio eterno ed immutabile. Il Figlio, anche lui di natura divina, inizia la sua sussistenza dopo il Padre come causa. Una simile interpretazione è stata sostenuta dal prete alessandrino Ario, morto nel 336 d.C. Tale eresia, tra l'altro condannata dal Concilio di Nicea nel 325, è tuttora sostenuta con delle varianti dai testimoni della Torre di Guardia. Essa afferma che solo il Padre può considerarsi veramente Dio, non generato, non creato, eterno e immutabile, negando, così, la divinità del Figlio in quanto derivante dal Padre. Un'interpretazione errata della proposizione figlio di Dio può rilevarsi anche dal versante. I cristiani che leggono oggi la Bibbia, davanti alla preposizione figlio di Dio trovata nei Vangeli, benché non credano essa sia riferita ad una divinità di rango inferiore o ad una creata fisicamente, pensano però che chi pronunciava tale espressione intendesse riferirsi alla seconda persona della Trinità. Le cose non stanno così. Quando Gesù fu portato davanti al sommo sacerdote, tacque e non rispose nulla, Marco 14:61. Poiché il silenzio di Gesù non poteva essere un capo d'accusa contro di lui, il sommo sacerdote lo interrogò: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Marco 14:61. Tale domanda evidenzia che al tempo di Gesù si pensava che il Cristo fosse il figlio del Dio vivente. La causa che portò gli scribi a questa conclusione è da ricercarsi nel periodo interbiblico, nei 400 anni prima della nascita di Gesù. Ma a noi interessa solamente prendere atto che il Cristo era ritenuto figlio di Dio non solo dagli scribi, ma anche da Giovanni il Battista. da Natanaele e tanti altri, Giovanni 1:34-49, Matteo 14:33. Altresì alla domanda di Gesù, riguardo chi egli pensasse che lui fosse, Pietro rispose, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Matteo 16:16. Che cosa volevano dire gli scribi, Giovanni il Battista, Natanaele, Pietro e i suoi contemporanei, affermando che il Cristo era il figlio di Dio? Che cosa intendevano con tale affermazione? Non certamente che egli fosse la seconda persona della Trinità. Questo vale anche per Pietro, che parlò guidato dallo Spirito Santo. Questa conclusione, apparentemente così categorica e ardita, s'appoggia sul fatto che il concetto della Trinità in un unico Dio sia stato compreso solo dopo la resurrezione di Gesù. Giovanni 2:22, mezzogiorno e 16. Più volte gli evangelisti hanno fatto notare che quando Gesù parlava, i suoi discepoli non capissero il significato delle sue parole. Luca 18:34. Anche il centurione, nel vedere spirare Gesù sulla croce, esclamò: «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». Marco 15:39. Quest'uomo non stava certamente facendo una confessione di fede niceno-costantinopolitana circa la Trinità. Egli stava semplicemente riconoscendo e confessando che Gesù aveva un'origine divina. Secondo lui, infatti, procedeva da un Dio. Stava solo ragionando secondo la sua cultura. Anche Giove, il sommo degli dei, aveva dei figli. È in quest'ottica, prima della resurrezione di Gesù, che gli scribi e i credenti giudei vedevano il termine figlio di Dio. Per un giudeo era, ed è anche oggi, assurdo e inconcepibile che in Dio, nell'Elohim, possano sussistere tre persone e, inoltre, che Yahweh, Dio, abbia assunto una natura umana. È quindi evidente che con l'espressione figlio di Dio, gli studiosi della Torah al limite arrivassero a pensare che Cristo avesse una natura divina ma non che fosse Dio stesso. Una conferma che gli ebrei nel dichiarare Gesù figlio di Dio non fosse una confessione di fede. Nella Trinità l'abbiamo anche da una riflessione di un ebreo, Martin Goldsmith, che troviamo nel suo libro Le relazioni interpersonali di Gesù. Per la teologia ebraica il titolo di Messia non implica la divinità, perciò quando Pietro chiama Gesù il Messia probabilmente non intende dire che egli è il Dio incarnato. Più verosimilmente vuol dire che Gesù è il liberatore tanto atteso, il salvatore di Israele, colui che avrebbe riscattato il suo popolo. Pietro sta riconoscendo in Gesù l'unto di Dio, il figlio del Dio vivente. La teologia cristiana tradizionale dà normalmente per scontato che con i titoli Messia e Figlio di Dio, Pietro abbia affermato la divinità di Cristo, ma in un contesto ebraico è più probabile che Figlio di Dio fosse il riconoscimento della perfetta umanità di Gesù, della sua assoluta perfezione, simile a quella di Dio. Notiamo che anche nella genealogia di Gesù anche Adamo è chiamato Figlio di Dio. Se il titolo Figlio di Dio implicasse la divinità, non avremmo più una trinità, ma addirittura quattro dei, il padre e due figli, Adamo e Gesù, e lo Spirito Santo. Notiamo inoltre che anche il popolo di Israele era chiamato ad essere figlio di Dio, cioè rispecchiare la santità e la perfezione di Dio, e a rendergli gloria e onore. Questo è ciò che intendevano gli ebrei con il titolo figlio di Dio. Importante sottolineare che la Bibbia afferma in modo inequivocabile la divinità di Cristo, ma non sulla base del titolo Figlio di Dio. Fa coro il dizionario biblico GBU del 2008 come Figlio di Dio. Nei Vangeli sinottici si tratta di un titolo messianico piuttosto che di una attribuzione di divinità. Tag 1635. Nelle scritture si trova che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme, Giovanni 7:42, e le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni, Michea 5:2. In conformità a ciò che leggevano, i giudei, ligi alla loro interpretazione, cercavano di uccidere Gesù, perché il loro capo d'accusa era: «Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio», Giovanni 10:33. Per i giudei Gesù poteva essere divino, ma non Dio. Così, l'espressione figlio di Dio assumeva al tempo di Gesù alcuni dei vari significati da noi fino ad ora considerati. L'idea di trovarsi dinanzi ad un discendente partecipe della natura divina, l'idea, quindi, di parentela e di razza, concezione, questa, distante dal fatto che egli fosse in realtà la seconda persona della Trinità. Dobbiamo rimarcare che solo da Gesù ci è pervenuta la rivelazione di un unico Dio pluripersonale. Esso, infatti, può definirsi tale non tanto in riferimento alla sua natura, ma quanto al numero di persone che ne fanno parte. Nell'Elohim, tradotto letteralmente dall'ebraico, significa Dii, sussistono quindi tre persone. Questo fu compreso dai credenti solo dopo che Gesù ascese in cielo. E, anche vero che i Vangeli rimarcano che Gesù è il figlio di Dio, questa espressione si trova circa 40 volte nelle scritture. Gesù non si attribuì però da se stesso questo titolo. Quando Gesù dodicenne fu trovato nel Tempio a discutere con i dottori della legge e rimproverato dalla madre, perché non dal padre? Rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Luca 2,49. Quando Gesù fu battezzato, leggiamo che, mentre stava pregando, il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba. E dal cielo venne una voce che diceva, tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Luca 3 e 21-22. Lo Spirito Santo o una persona. Non stupisce quindi che questo sia sceso su Gesù con una fisicità sostanziale e visibile e che dolcemente si è posata come una colomba su di lui. La voce ha dichiarato che Gesù è suo figlio, ma tale voce non è attribuibile automaticamente solo al Padre. Dichiarato che il Padre è Dio e lo Spirito Santo è Dio, Gesù di chi è figlio? Non può esserlo di entrambi. Niente di più facile. Il termine Spirito Santo, in ebraico Ruah, è un sostantivo femminile. Quando leggiamo che Gesù è figlio di Dio, dobbiamo quindi ravvisare in tale espressione un'implicazione molto più ampia di quanto possa inizialmente sembrare. E quello che cercheremo di comprendere, tenendo presente il fondamento semitico di tale espressione, l'automatismo, figlio di Dio, cioè figlio del Padre, è arbitrario. Cristo è senz'altro figlio del Padre, ma anche figlio di Dio, in quanto deità. Prendiamo in esame il termine Dio. Una cosa è sicura. Non vi è parola più indefinibile e ambigua. Affermiamo che i musulmani credono in Dio, che gli ebrei credono in Dio, che i cristiani credono in Dio. Dichiariamo che Dio è uno, quindi tutti dovremmo avere lo stesso Dio. Anche dopo un esame superficiale, ciò risulta assurdo. E un'offesa alla fede cristiana. La parola Dio si presta ai più evidenti sincretismi, perciò si usa a sproposito per dire tutto e niente. Quindi, affermare che Gesù è il figlio di Dio equivale ad esprimere la più confusa affermazione di fede, se non si chiarisce prima che cosa i cristiani intendano per Dio. Come abbiamo considerato, già di per sé la parola figlio si presta a diverse interpretazioni. Se a questa difficoltà aggiungiamo un'altra parola, priva d'alcun evidente contenuto, si arriva a comprendere quanto sia urgente dare la giusta spiegazione riguardo all'espressione figlio di Dio riferita a Gesù. La parola Dio, in greco Theos, è l'equivalente del termine ebraico Elohim, il plurale della parola Dio, cioè Di. Anche il termine Dio, come molti termini biblici e non biblici, ha più applicazioni. Esso è rivolto alla Trinità, a Cristo Gesù, allo Spirito Santo, al Padre. Quindi, ogni volta che incontriamo nella Scrittura la parola Dio, dobbiamo chiederci a chi sia riferito il termine. Ne deriva che l'espressione figlio di Dio può significare sia che Gesù Cristo è figlio del Padre, sia figlio dello Spirito Santo. Non prendiamo in esame che Cristo sia figlio di Cristo perché non ha senso. Prima di affrontare questo dilemma è indispensabile fare una doverosa premessa. Nell'Antico Testamento la divinità degli ebrei era Yahweh. Prendiamo in esame un solo versetto dove traduciamo il nome Eterno con l'originale ebraico Yahweh e il termine Dio con Elohim. Ciò nonostante Yahweh Elohim tuo non volle ascoltare Balaam, ma Yahweh Elohim tuo mutò per te la maledizione in benedizione, perché Yahweh Elohim tuo ti ama. Deuteronomio 23, 5. Ho scelto questo versetto dove troviamo l'espressione Yahweh Elohim tuo tre volte, per dimostrare come Yahweh rivendichi continuamente, fino alla ripetizione ridondante, il diritto di essere la divinità del suo popolo, che aveva riscattato dal paese di Egitto e liberato da coloro che lo volevano distruggere. Quindi, la divinità di Israele non era una divinità vaga, ma era colui che aveva camminato per 40 anni nel deserto con il popolo di Israele, colui che gli aveva dato le leggi, colui che parlava bocca a bocca con Mosè, colui che si era fatto vedere da Isaia seduto su di un trono, colui che aveva lottato con Giacobbe, colui che si era fatto vedere da Abramo, colui che camminava nel giardino dell'Eden con Adamo ed Eva, colui che ha creato l'uomo e ogni cosa. Il Dio degli ebrei era dunque un Dio inaccessibile che però si poteva incontrare, un Dio invisibile che si faceva anche vedere. Leggiamo un episodio biblico al quale non si è data la giusta attenzione. Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro Elohim d'Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato di zaffiro, della chiarezza del cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro i capi dei figli di Israele, ed essi videro Elohim, e mangiarono e bevvero. Esodo 24, 8-11. Le interpretazioni spiritualizzanti, allegoriche e teosofiche, salvo violentare il testo e la filologia, non aiutano certamente il lettore a cogliere il pensiero dell'agiografo. Se Dio Yahweh non si poteva vedere, allora 74 persone avrebbero visto altro. Se Yahweh non si poteva incontrare, allora Abramo, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Gedeone e tanti altri non hanno incontrato nessuno. O forse soltanto un qualche extraterrestre. Il racconto biblico non ha quindi più nessun significato. Se Dio Yahweh si poteva vedere e toccare, non vi è nulla di straordinario nell'affermazione di Gesù, come uomo, di essere proprio Yahweh, di essere colui che aveva parlato con Abramo. Gli scrittori biblici che avevano compreso compiutamente la natura divina di Gesù Cristo attribuirono alla parola Logos, cioè a Cristo, l'atto di aver creato ogni cosa. L'Evangelista Giovanni scrisse che Isaia vide Cristo. Paolo testimoniò che gli israeliti nel deserto tentarono non un vago Dio, ma il Cristo stesso. 1 Corinzi 10, 9. Se Cristo si identifica con Yahweh, Yahweh è dunque il nome proprio di una delle tre persone della Deità, e non, come si pensa comunemente, la prima persona della Trinità, il Padre. Questa precisazione serve per far comprendere che Dio Yahweh, il Cristo, ha assunto un corpo rivelando che, nell'unico Elohim, sussistono tre persone di cui Egli, Yahweh, è una, e Gesù Cristo che ha rivelato il Padre, e non viceversa. Prima della venuta di Gesù, nessuno poteva immaginare che nell'unico Dio sussistessero tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo. Se Gesù è Figlio, come dobbiamo intendere questa affermazione? Può essere Gesù Cristo il Figlio di Dio, giacché Egli stesso è Dio? Può essere Gesù Cristo il Figlio di se stesso? È evidente che occorre trovare la risposta altrove. Poiché Gesù Cristo è Yahweh, e dato che la parola Dio è l'equivalente di Elohim, o divinità, l'espressione figlio di Dio significa che Gesù Cristo è lo Yahweh della divinità. Della Trinità, dunque, Gesù Cristo è Yahweh, il figlio. Gesù Cristo non può essere stato generato dal Padre in senso fisico, o nel senso che il Padre è una causa da cui dipenda l'essere del figlio. Dio non ha un figlio. Gesù non può neppure essere figlio di Dio nel senso che gli sia inferiore. Gesù Cristo è figlio di Dio grazie alle relazioni con le persone del Padre e dello Spirito Santo, aventi in comune la stessa natura trinitaria. È vero che leggiamo nel Salmo 2, dichiarerò il decreto dell'Eterno, Yahweh. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Salmo 2, 7. Può sembrare che Yahweh sia il padre che in un momento preciso del tempo generi il figlio. Tenendo presente che la natura divina nella persona di Yahweh ha assunto una natura umana, vale a dire Gesù uomo, in questo salmo Yahweh si riferisce alla sua natura umana, generata in un momento preciso della storia. Yahweh Dio è senza principio e senza fine e quindi non può essere stato generato nel tempo. Mentre Gesù come uomo è nato nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo, tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, Luca 3:1-2, l'Eterno Figlio di Dio ha preso un corpo come il nostro, con il nome di Gesù di Nazaret. Proprio per dissipare il grande interrogativo in relazione alla divinità di Gesù Cristo se Gesù sia Yahweh e se egli sia della stessa natura del Padre, Giovanni inizia il suo Evangelo con una dichiarazione della divinità di Cristo Gesù, che è senza pari. Uno nel principio era la parola, in greco logos maschile, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola. Due, egli era nel principio con Dio. Tre, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, logos la parola. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. 4. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. 6. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. 7. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. 8. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. 9. Egli era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. 10. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. 11. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto. 12. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli. 14. E la parola si è fatta carne, ed ha posto la sua tenda fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. 15. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo, «Questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me». 16. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. 18. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Le prime parole, nel principio, obbligano il lettore per associazione di idee a fare un accostamento. Con le prime parole della Genesi, nel principio Dio Elohim creò i cieli e la terra. Giovanni sta asserendo che prima ancora, dell'inizio di ogni cosa, esisteva la parola. Logos, che la parola era di fronte alla pluralità nell'Elohim, che in Elohim sussisteva la parola. Inoltre, tutto quello che fu fatto per mezzo della parola. L'esecutore materiale di ogni opera dell'Elohim è stato il Logos, il Dio Yahweh. Queste sono le genealogie dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che l'Eterno, Yahweh, Dio, e L-O-H-I-M fece la terra e i cieli. Genesi 2:4. Un solo creatore. Elohim Deità, un solo creante, Yahweh Cristo. Quando giunse la pienezza dei tempi, Yahweh si è fatto carne, ha assunto una natura umana, ha vissuto tra gli uomini come un uomo a tutti gli effetti. Ecco ciò che dobbiamo cogliere nel prologo di Giovanni. Senza questa premessa, il suo Evangelo non può portarci alla conclusione che egli stesso fa. Queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20:31. E dunque Yahweh Dio, la divinità dell'Antico Testamento, e quindi Gesù Cristo ha rivelare l'esistenza del Padre, non il Padre che rivela l'esistenza del Figlio. Significative sono le prime parole di Gesù adolescente che troviamo nei Vangeli, ma egli disse loro «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Luca 2,49. Avere una comprensione riguardo all'identità di Cristo Gesù che sia diversa dalla suddetta ci mette pericolosamente in una posizione non gradita a Dio. In effetti, tutto il messaggio di Gesù Cristo può essere riassunto nell'affermazione di Giovanni 8,24. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Gesù è stato categorico, assoluto. Non è sufficiente credere che lui sia divino o credere che egli sia il Messia mandato da Dio. Non si tratta di credere che il Cristo fosse presente nell'Antico Testamento sporadicamente e che egli fosse raffigurato nei sacrifici o profetizzato dai profeti, ma che Cristo fosse nominato circa 6.000 volte nel tetragramma Yahweh. Gesù Cristo esige di essere riconosciuto come l'Io sono, come la divinità dell'Antico Testamento, esige di essere accettato. Quale Yahweh? Credere che egli sia meno di questo significa morire nei propri peccati ed essere destinato alla perdizione eterna. Per quanto mi riguarda, la mia confessione di fede si identifica con l'enunciato di Giovanni. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio, che è nel seno del Padre uno, è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1,18. Così è tradotto in alcune delle nostre Bibbie, ma alcuni manoscritti più antichi riportano mai nessuno ha visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre, quello ha rivelato. Alla luce di quello che abbiamo esaminato, una tale proposizione, mai nessuno ha visto Dio, risulta evidente. Ma dopo attenta riflessione, anche enigmatica, ben compresa però, essa diventa lo squarcio di luce nelle tenebre. Che nessuno abbia visto Dio è un'affermazione da capire. Perché Mosè e altre 73 persone lo videro, Giacobbe lottò con Dio, Abramo vide Dio. Ma chi essi videro? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, tutti e tre, videro Yahweh, cioè il Cristo, Dio, cioè la Trinità, non si può vedere nella sua natura, mentre Yahweh sì. E poiché Yahweh è Dio, si può sostenere che gli uomini videro Dio, ma non Dio in quanto Trinità. Per cui dobbiamo sempre specificare chi intendiamo con la parola Dio e a chi si riferivano gli scrittori biblici. È evidente che alcuni aspetti del vocabolario biblico vadano riconsiderati e tenuti in grande attenzione. Gesù è nel seno del Padre. Che significato ha questa espressione? E forse Gesù nel seno della prima persona della Trinità, il Padre e lo Spirito Santo, non è Dio anche lui? Non vi è un unico Dio? Non era forse uno dei capi di accusa dei giudei nei confronti di Gesù, che egli chiamava Dio? Suo Padre, facendosi uguale a Dio? Giovanni 5,18. La difficoltà nella comprensione di questa proposizione è la parola Padre. Se come abbiamo considerato la parola Padre non ha un solo significato, a volte tale vocabolo si deve riferire anche allo Spirito Santo. La natura divina che è propria delle tre persone è Padre in relazione ad ogni cosa creata. Gesù, che è della stessa natura divina, essendo Yahweh, è colui che ha fatto conoscere Dio, la Trinità, partendo dalla relazione con suo Padre. Ecco ciò che intendeva affermare Giovanni con la proposizione «mai nessuno ha visto Dio». L'unigenito Dio che è nel seno del Padre, quello ha rivelato. Mai nessuno ha visto la Trinità. L'unigenito Dio, Yahweh, che sussiste nella stessa natura trinitaria, è colui che l'ha rivelata. Questa conclusione è in armonia con tutto l'insegnamento della Scrittura, riaprendo un'antica finestra su di una verità professata dai cristiani dei primi secoli. Marzo 2005. Ellero. 1. La natura di Dio è anche paterna, cioè padre, solo nei confronti delle creature, non in rapporto alle persone divine. Il punto fondamentale del problema è comprendere e discernere quando il termine padre si riferisce alla persona del padre o alla deità.